dirò a chi ha una marijo alla uliro parvolatai. Dirò cocco, na hotto cinta mi tua. Nasayang do peho hasiyan.